è vero che il mio tirocinio si è dovuto bloccare per l'emergenza coronavirus. Quando posso riprendere? Sì, in tutta Italia sono stati bloccati i tirocini. Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni su quando potrai ricominciare. Sono Maria Pia D'Andrea, sono un'assistente sociale e lavoro in alcuni SIPROIMI della provincia di Salerno. Questa che avete ascoltato è solo una delle tante domande che durante l'emergenza coronavirus le ragazze prese in carica nel progetto Libere Tutte hanno rivolto a noi operatrici. Io sono Carmen Daletta, psicologa del progetto Libere Tutte nella provincia di Salerno. Le nostre attività in piena emergenza continuano anche a distanza per offrire supporto sanitario, supporto legale e orientamento lavorativo alle potenziali vittime di tratta, ma continuiamo ancora ad affiancare tutti gli operatori sociali e i volontari dei centri di accoglienza. Per maggiori informazioni potete contattarci allo 089 2583 316 oppure alla nostra email liberetutte@consorziolarada.it. Vi ricordo inoltre l'appuntamento fisso ogni giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Libere Tutte è un progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud. Noi ci siamo, distanti non vuol dire lontani.